È interessante, non trovate, che lo stesso giorno, giovedì 16 ultimo scorso, si sia avuta contemporaneamente notizia della sentenza del Consiglio di Stato sulla liceità di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche e quella delle proteste contro lo slittinista azzurro Gerhard Plankensteiner, che dopo aver vinto la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici non solo ha dichiarato di non conoscere le parole dell'inno di Mameli, ma si è permesso di definirlo in tono sprezzante quella canzone. È un tipico caso in cui in due contesti a prima vista eterogenei si ritrovano delle argomentazioni dello stesso tipo destinate inevitabilmente a rafforzarsi a vicenda. I giudici della sesta sezione del massimo organo della giustizia amministrativa hanno decretato in sostanza che il crocifisso non è esclusivamente un simbolo religioso, ma in una scuola svolge una funzione simbolica educativa a prescindere dalla fede professata dagli alunni, perché esprime l'origine religiosa dei valori che connotano la civiltà italiana, che hanno impregnato tradizioni, modo di vivere e cultura di un popolo e in ultima analisi emergono dalle norme fondamentali della nostra Costituzione. Il loro punto di vista è del tutto analogo a quello di chi ha osservato come, essendo Plankensteiner italiano a tutti gli effetti, nonostante il nome che porta, non può esimersi dal rispetto dovuto a quell'inno che va da sé non può essere considerato una canzone qualsiasi. Tra quanti si sono espressi in tal senso si è segnalato un membro del Parlamento italiano che si è detto umiliato l'idea di uno sportivo che rinnega il simbolo stesso della nostra identità nazionale e dei suoi valori. In entrambi i casi, dunque, si tratta di un problema di identità. Il crocifisso è visto come l'espressione dei valori generali a cui il nostro popolo si riconosce in toto, atei, musulmani e laici volteriani compresi, e l'inno di Mameli pure. E se uno è nato a Vipiteno, al di qua del confine, anche se lui preferirebbe dire di essere nato a Sterzing e vanta degli antenati che, con probabilità altissima, consideravano Goffredo Mameli un mestatore, il risorgimento un moto eversivo, deve adattarsi a cantarlo allo stesso, possibilmente con la mano sul cuore. Se no, deve restituire la medaglia, prospettiva di fronte alla quale, tra l'altro, l'atleta ha dovuto affrettarsi a dichiarare che, caspita, lui aveva soltanto scherzato e che Fratelli d'Italia, adesso che ci ripensa, è molto più caro di Achduliber Augustin. Ora, il ragionamento del Consiglio di Stato è come minimo contraddittorio, perché è ovvio che il valore civile del crocifisso dipende tutto da quello religioso. Non sarebbe facile, in caso contrario, capire quale modello di civiltà e quale proposta educativa si possa rintracciare nell'immagine di un nostro simile inchiodato a una croce e ivi lasciato a morire di disarticolazione, che è notoriamente uno dei supplizi più atroci che la perversità umana abbia mai escogitato per i devianti. Sotto l'apparenza di un'innocua riproposizione del vieto perché non possiamo non dirci cristiani, vi ci si riaffaggia una tipica logica identitaria, la stessa sulla quale ci siamo intrattenuti un paio di settimane fa in questa sede, quella per cui, visto che io e te facciamo un noi, tu devi credere a quello che cui credo io, se no botte. E il fatto che il giornale dei Vescovi abbia salutato la sentenza con un allegro per non andare contro a noi stessi è tutt'altro che tranquillizzante. Quanto all'inno non saprei dirvi per quali motivi il velocissimo Plankensteiner abbia espresso, se davvero l'ha espressa, la sua riluttanza a cantarlo. Forse perché è uomo di gusti raffinati e proprio non sopporta sul piano estetico quelle parole e quella musica sul che sarebbe difficile dargli torto. Oppure perché le espressioni anti-austriache che il testo a leggerlo tutto contiene feriscono la sua sensibilità sudtirolese, che anche questa è un'ipotesi. O magari si è soltanto sbagliato, inciampando, come capita spesso a chi è di madrelingua tedesca, sulla traduzione della parola Lied, che i nostri vicini germanici applicano equanimamente ai canti più sublimi e alle canzonette più sguaiate. Sono sicuro, comunque, che in tutti e tre i casi di riluttare il pover'uomo aveva pienissimo diritto. Nella libertà di pensiero è compresa quella di giudicare qualsiasi prodotto culturale e nessun membro di una minoranza etnica, per quanto vi possa parere strano, a norma di Costituzione è tenuto a sapere l'italiano. Il ragionamento è semplice, ma nella sua semplicità sembra al di sopra delle capacità di comprensione di chi preferisce ai rischi della libertà la sicurezza dell'omologazione. Sono tempi difficili i nostri, e l'idea di stringersi a corte, come appunto il Mameli raccomandava, ha se non altro il vantaggio della semplicità, tanto è vero che può attirare chiunque. L'onorevole di cui vi dicevo, in effetti, non viene né dall'Alleanza Nazionale né dagli ex combattenti. Ha un ruolo di un certo peso in uno dei partiti dell'opposizione. Con la lista unitaria e proporzionale senza preferenze, può capitare a ciascuno di noi di votarlo, anzi di eleggerlo, dimostrando in ultima analisi come alla tradizione comune non si possa davvero sfuggire.